è vero, Però no, no, no, no, hai no, appena aspetta, detto che ti fa aspetta, piacere aspetta. giocare con me. I GG equivalgono Luke, è ben diversa la cosa. Il gruppo GG intendo l'istituzione GG, quello che è stato creato GG, ok? Chi Quindi l'ha Game creato? Grabbers, tu, ma questo che Chi sei? è? Ci sei Chi stato è per due Game anni là Grabbers? dentro. E quindi? Ulisse, E quindi? due Ma fa... anni. E Se le quindi? regole non ti piacciono, tu che fai a casa tua? Se tua mamma ti impone una Vado cosa, mica via! te ne vai via di Sì! casa e dici: mamma, a me non mi sta bene, perché Certo! non facciamo qualcosa per evitare che L'ho succeda questo? fatto! Quello l'ho fatto, No! Tu sai che hai fatto quel giorno? Quel giorno, e visto che aspetta! Luke Sono se la stava andato, prendendo con vedi? Xander, tu che hai fatto? Visto Vedi? che se ne vai via? Ha solo mutato il microfono. Eh beh, ma Un ci vuole attimo, un un attimo. Allora, il Aspetta un problema è attimo. questo. Allora, facciamo così. Pian piano, organizziamoci le cose perché è più facile così ragionarci. Facciamo in questo modo. Allora, i GG sono un'istituzione, ok? Io sono uscito dai Se tu sei che GG. è la scuola. Sì, è un gruppo, ok? È No, un no, no, gruppo. non è. Il GG non è niente. Eravamo Toms. Ok, Punto. perfetto. Vabbè, non c'è più GG, va benissimo. Allora il discorso Non ci può sono anche mai uscire. stati i GG. Perfetto. Non ci sono mai stati i GG. Poi io ricordo che c'erano i GG, poi non so. Era una mia sorta di community che non c'è mai stata. Ok, allora non c'è più adesso. Quindi, dov'è il problema adesso? Vuol dire che non c'è più. Meglio. Che Dio di. Però Buono sempre, così. parli sempre dei GG, però è riferito sempre a Luke. No, se volevo di Luke, dicevo Chi Luke. Dicevo dettava GG. le regole del gruppo? Luke, e allora ti sto sul Eh cazzo io, sì. Ulisse, e allora? No! Cioè, tu lo stai, tu stai dicendo questo, io non ho mai detto questo. Ho detto che non concordavo con alcuni tuoi. Cioè, alcuni tuoi e dei GG. Diciamo, non sente, no, fammi trovare una parola per poter descrivere cosa, Il fatto che te tuoi ne sei andato solo pensieri, perché insomma. che Luke stava cacciando Xander, non avevi più la persona con cui fare le serie. Invece di andare Ma da Luke e stronzate, chiedergli, stronzate, non faccio mai Luke, con le serie guarda, con io ho la Xander serie con adesso. Xander, vabbè, mo, all'epoca sì, avevi una tua serie in attivo insieme anche a Gigi, vabbè. Invece di E andare quindi da sarebbe stata Luke la e stessa cosa, non sarebbe chiedergli diverso, e parlarne. Magari per dire: guarda, troviamo un accordo perché non mi piace come stanno a finire le cose. Tu invece hai messo il dito ancora di più nella piaga e sei, tra virgolette, uscita da tutto. il problema Abbandonando adesso tutto è, questa è la e mia tutti. domanda, molto seria. Perché stiamo rifangando alcune cose vecchie che non c'entrano nulla con l'attuale serie? Tu hai detto che ti Beh, stanno antipatici gli GG? È questo, è nel per quel momento in cui motivo fai un questo? video e parli dei vecchi GG, io ti parlo delle cose vecchie, automaticamente. Poi che problema c'è, scusa? Appunto, Oh, non è un allora, problema, non è quello il punto, però sai com'è, ti cioè rigiro la domanda. io. Come Dimmi. mai sei entrato nella mia serie, non l'hai, né detto nei tuoi video, e nei tuoi video hai parlato solo dei GG che non c'entrano un cazzo con questa serie? È uguale la domanda, Perché la serie è in live, ne parlo nei live, non nei video. No, vabbè, E glielo anzi, l'ho chiedono detto perché nei no. Ma video se in cui rientrano poi. nei GG, gli chiedono perché sei rientrato o meno. E quindi gli ha risposto per E io questo ho motivo. risposto in questo motivo perché molta gente mi ha risposto. La gente mi ha chiesto: fai live con Luke? Sì, ho risposto sì, fin lì ci siamo. Ha chiesto: sei rientrato in GG? No, non sono rientrato in Ah, GG. scusa, E Vince. quindi mi sembra ovvio. Cioè, alle domande che mi hanno fatto, ho risposto. Ti vorrei fare una domanda io, Ulisse. Dimmi. Allora, tu hai detto che Gigi Ciao a stanno tutti col ragazzi, cazzo, ben... però Luke no, giusto? L'istituzione di GG è ciò che c'era prima, ok? Che non c'è l'istituzione, Ok. non c'è nulla. Comunque, sì, alcune idee dei GG non mi andavano bene, non mi vanno attualmente ancora bene, insomma. Perché continui a Quali idee? parlare? Non Perché esistono continui a idee. parlare di C'erano idee di GG? delle idee! Delle Le tue idee di idee, GG allora, sono le facciamo mie idee, così. sono ancora adesso, perché sono Allora, io, non sono se cambiato. tu mi dici le mie idee sono uguali alle idee di GG, allora alcune tue idee non mi stanno bene, ma è Quali idee? giusto. Nessuno ha scritto nessuna Mi idea. dici quale idee? Perdonami. Ah, ho tante idee, per esempio quello di non collaborare con gente esterna al gruppo, per Io esempio, al mai avevo mai sbagliato questo. fatto questa cosa? Dimmi. Però sì, però c'erano Non mica tante belle parlare. cosette. Dopo, quando Ulisse, uno collaborava con Ulisse, una scusami. persona, c'era una semplice No, no, no, affermazione no, che no, no. È veniva. normale. No, no, no, è normale. Se io litigo e mi prendo a botte, per esempio, con Chip, viene Akimbo e offre la camomilla a Chip al bar, io mi incazzo con Akimbo, ok? Ma se Akimbo va a fare un video con De Carli, a me che cazzo me ne frega, buon per lui. Ulisse, l'unica regola Perfetto, che tra dimmi. virgolette c'era era di Luke ed era: se tu collabori con una persona che ha litigato con me, io non ti aiuto più. L'unica cosa era questa. Anzi, Ok, e fin lì, anzi, no, infatti, no, ti dimmi, spiego anche il dimmi. motivo. Ho sempre detto, potete fare video con chi cazzo volete, ma se io litigo con Jokalien, per esempio, e tu vai a fare video con Jokalien, puoi, ma non ti aspettare di fare video con me, perché se tu fai video con me, Ma ok, infatti questa cosa mi e andava il giorno bene. dopo li fai con Certo. Jokalien, io automaticamente passo la visibilità a te e Jokalien. Sì, ma questo discorso ma è non, chiaro, non ho mi sta mai chiaro. legato a nessuno di Questa è Basilio. l'unica Infatti, limitazione, infatti questa è l'unica. l'unica limitazione, per questo io ho preferito, per, diciamo, completamente levare il problema di non fare video con una persona, ho preferito uscire completamente dai GG e non fare e far video con chi volevo, così che non avessi nessuna visibilità da nessuno e Ma hai dipendesse finito tutto per da non fare me. più video con nessuno, non so se te Ma ne sei guarda che Uli accorto. potevi fare tranquillamente Ma quando io non ho eri nel problema, gruppo guardate la con loro. differenza, a me non c'è la differenza se sono nei GG oppure no. Ciò che facevo su YouTube prima lo faccio ancora attualmente. Molto meno, ma sì. Magari collaboro con meno gente, proprio perché voglio che il mio canale è mio, ovviamente devo portare più video con me stesso, O perché quindi io da nessuno ti solo. caga. Diciamo le cose serie, dai, Che Ulisse. nessuno? Ti caga, tra virgolette. Bah, sinceramente non so se tu hai seguito il mio canale, però ultimamente abbiamo fatto delle collaborazioni con mezza YouTube Italia, almeno dei ragazzi che hanno più o meno la mia stessa iscritti, per Mezzo esempio. YouTube Italia. Ah sì, c'è, cioè, infatti, l'ho notato, notato. Ho notato anche il Ma calo di visite. quindi, cioè, il calo di vite Collaborare con Mezzo YouTube Italia vuol dire chissà che cazzo è arrivato il canale. Anzi, mi auguravo che tu salissi. E invece, da quando sono uscito di GG, tu, Gio Cagliene, Akimbo, è qua testimone, Manu. Ma in Akimbo, realtà, sinceramente, da quando sono uscito dei da GG. quando hai Dimmi. litigato con me? Ti è salito il canale o al contrario? No, giusto per sapere. No, al contrario, Cesare. E Gio Cagliene, Nebbia, tutti gli Guarda, in altri, Ulisse, realtà devo dai. essere sincero, da quando sono uscito dai GG, io sono uscito dai GG a gennaio e a dicembre avevo fatto il massimo delle Dicembre viste era del... ancora qui Sì, dentro. ok, il massimo delle viste che avevo fatto attualmente, poi tranquillamente il mio canale ha sempre avuto degli alti e dei bassi, per esempio... Ok, come Xander, come Xander. Normali, sì, perché se ho Xander con voglia in me. quel video di fare dei Xander video, con li me è faccio. arrivato a 1.200.000 visite mensili. Ma limitavi le visite, L'ho non visitavi buttato lui. fuori e rompeva le palle a Soul Shevan. Ti ricordi, Soul? Da quando sono uscito dai GG, sto a salì, non ha mai più toccato il milione. Bah, in realtà l'ha toccato quando avevo fatto la serie della Pixelmon, in realtà. Quella l'abbiamo fatto da solo noi. No, Era appena uscito, per cui non contare quel mese. non era appena uscita, l'abbiamo iniziato a luglio, abbiamo iniziato. Vabbè, perché erano gli strascichi della vecchia serie. Eh beh, non credo, insisto, quella vecchia serie Abbastanza. ha avuto tante cosette che non mi Vabbè, a me piacevano, non mi quindi... interessano le Ah, viste. comunque, Quello che non è intendo, quello... cioè, bisogna manco a me fare tutto interessano le sto viste, sì. casino per uscire Sì, allora, da una insisto. cosa e creare problemi Scusate ragazzi, anche a stiamo te un po' stesso, travisando il discorso. Esatto, vabbè. Vabbè, sì, in anche effetti, secondo me stiamo quattro travisando troppo il minuti dobbiamo discorso. Il discorso prendere, era... stiamo cose personali fuori. Il discorso Grazie. qua è Marco, mi molto dispiace, semplice, ma le cose siamo su una personali... serie. Marco, mi dispiace, le cose personali sono quelle che incidono e toccano questa serie. Assolutamente, Perché ma se ci sono parliamo della tutte queste serie, non cose... di cose vecchie, per Appunto, favore. appunto! Se ci sono cose vecchie arretrate, ci sono disguidi arretrati o cose arretrate, che cazzo è entrato a fare nella Ma serie? insisto, se avessi avuto qualcosa contro di te e ti odassi alla morte, come tu stai sostenendo, non sarei entrato nella serie. Non ti avrei nemmeno chiesto di entrare nella Ulisse, ma serie. ti ricordi per caso come siete usciti e tutto quello che avete fatto appena usciti? Certo, e io ricordo anche Allora. la tua reazione, ovviamente. Non vi ho cagato. E beh, non proprio, però comunque sì, ok. Il punto è che entrambi abbiamo avuto la reazione. Poi ci siamo fermati e abbiamo avuto Avete mai la visto un pausa. mio video che parla di Ulisse Xander? Giusto per sapere, magari E non io vi avevo ricordi. visto un mio video in cui parlo di Luke? No, non mi sembra. Molte, molte altre cose, certo. Un paio di Tu avevi fatto live. le frecciatine su Gigi e all'epoca anche su Certo, Jotarien, sulla perché Pixelmon, solo queste due su cose. Gigi sì, ovvio, perché non mi piaceva il modo in cui ci eravamo avevamo chiuso i rapporti, ovviamente. Ma quello era con me e Gigi, non con me e Gianluca Luke. Ben diversa la cosa. Veramente, vabbè, non hai manco provato cioè, tra virgolette, a riavvicinarti. Proprio L'hai chiuso perché subito, gli hai buttato fuori proprio perché Ulisse, eravamo Ulisse, arrivati a un punto in cui avevamo Ulisse, idee completamente opposte, quindi ci siamo avete fatto separati. tutti quanti la stessa strada e gli stessi pensieri. Sembravate figurine stampate con la fotocopiatrice. Beh, che schifo Marcus Cron, che merda Quit 108, litigo con Luke, Quit 108 Marcus Cron, Va, basta, i miei allora. preferiti. Ok, partiamo dal presupposto che io e Dimmi che Manfredi non è adesso non vero, abbiamo nessun Ulisse, tipo di dai, dimmi che non è problema. vero. Non abbiamo mai avuto Marcus nessun tipo di Cron mi ha problemi. detto Io ho che tu... solo avuto un disguido con il fratello di Marcus, però per quanto riguarda Marcus era indifferente, sì, no, ma anche No, no, no, no, attualmente è no, nelle indifferente, chiamate si sì parlava o no. abbastanza male di Marcus Cron e Quit, mi dispiace. Compreso te, Xander e tanti altri. Xander cosa diceva? Lo odiava Marcus Cron. Ora ci Minchia. va culo e camicia. Ok, Quando sono fatti di giocavi lo odiava. Xander, ok. Ma Quando giocavi perché lo mettiamo in mezzo altre odiava. persone? Io sto parlando di me stesso, perché parlate Vabbè, di sono i tuoi Giocarelli? amici, non i miei. E quindi se io parlassi di te, dovrei parlare anche dei tuoi amici. What senso di questa cosa? Non ha senso. Se trovi cose incoerenti, certo, puoi tranquillamente farlo. Il problema è che noi incoerenti non lo siamo mai stati. Perfetto, buon per te, che ti devo dire. Io, per quanto riguarda... Ad essere tornato, non noi ad averti chiamato. Insisto, non sono tornato di GG. Voglio soltanto tornare a giocare in una serie tranquilla. Se è un problema, e te l'ho chiesto all'inizio, è un problema, tu non mi hai detto di no. Quindi il perché adesso si pone questo problema in questo momento? Grazie, quindi, è stato detto un'altra cosa. Non è un problema se... E sono state date delle motivazioni, delle cose. Perfetto, abbiamo discusso ieri, abbiamo trovato dei punti fermi da migliorare. Quindi perché c'è ancora questo astio adesso? Qual non è c'è il punto? Astio. Non c'è adesso, astio. Sì, è astio questo. Ulisse, c'è stata una domanda ieri importante. Dimmi. Per quanto mi riguarda, per capire un attimo come pensare su questa situazione. Io penso molto personalmente, non guardo in faccia né Luke né nessun altro in questa stanza. Ti è stata fatta una domanda da Vicuz dicendoti, non mi ricordo esattamente la forma, ma la tua risposta è stata: a me interessa solo giocare il pacchetto. Certo, è la allora cosa che ho detto a Luke allora il primo giorno. Non si può giocarlo in gruppo. Se si può giocare in gruppo, ben venga. Infatti ma ho scelto di giocare. Giocarlo, non giocarlo. A me interessa giocare a Minecraft in questo momento, ok? Quindi non ti interessa giocare in gruppo, punto. Sì, che mi interessa giocare in gruppo. Che ci sia il gruppo. Se c'è un gruppo, nulla. Ben venga. Posso comunicare meglio con le persone, gruppo? Possiamo sì, fare tante cose. Il problema è che stai sempre puntato. Perfetto, ma ho già detto che mi sarei messo l'impegno per poter risolvere questo problema che abbiamo visto ieri. Allora, adesso dov'è il problema? Chiudiamo la serie, non facciamo più live, non facciamo più un cazzo, però dalle 7 alle 9 tutte le sere giochiamo tra virgolette. Continueresti? Certo, però non è nessun problema, insisto. Marco, mi ricordo io una domanda che aveva fatto che è stata significativa. Chiedo scusa se interrompo adesso, vi faccio buonasera a tutti. Allora, mi ricordo la domanda in live pienamente è stata: era una differenza, c'è differenza per te tra giocarlo in single player e multiplayer? Cosa hai risposto? No, ma insisto, no. Infatti non c'è, ecco, per me differenza. Tu lo sai, voi mi fate problemi su questa differenza. Scusami un attimo. Dimmi. Sto finendo la discussione cortesemente. Tu lo sai che hai dato la dimostrazione come si giocasse in single player, confermato anche dagli altri partecipanti. Certo, questo me l'avete detto. Ecco. Vai, hai anche detto del puzzle di essere entrato nella serie perché vuoi dichiarare, perché ti reputi il migliore. No, aspetta, esatto. Questa cosa adesso è cambiata. Come ieri era perché vorrei essere il migliore, ora sono il migliore. Cioè, no, come è cambiata la cosa? Hai detto, sono entrato nella serie per essere migliore. Per dimostrare di essere il migliore. Questo così. È il migliore di me parole. Stesso, ovviamente, perché come no, faccio no, in ogni no, qualsiasi come faccio in qualsiasi serie di Minecraft moddato, perché una serie di Minecraft moddato è competizione, se no si fa un vanilla tranquillo classico, faccio del mio meglio per fare cose differenti e migliori, cosa che faccio in qualsiasi serie moddata. In una serie vanilla non c'è questa cosa. Ulisse, però qua ci sono grossi problemi di comunicatività italiana, allora. Se tu la pensi in un modo diverso da quello che tutti noi abbiamo capito, c'è un grosso problema di come si comunica. Non lo so, se si vede che comunico in modo errato, voi concepite le cose in modo differente. Ma il problema è che non sono scemo lì, se sta cosa la puoi raccontare a un bambino di 8 anni. Non puoi dire, sto dimostrando di essere migliore di me stesso facendo le cose diverse dagli altri, quando in realtà stai copiando e facendo passo passo quello che dice il libro della serie. Non sei uno scemo, Il libro della serie, manco l'ho aperto il libro della serie, manco c'è, manco so che cos'è. Le cose sono passo passo, per cui... È ovvio, e quelle cose bisogna fare, sennò non si può andare avanti. Ma stai scherzando, allora, è davvero? Mi stai dicendo... Come fai a saperlo se non hai aperto il libro, perdonami. Perché per andare avanti devi fare per forza Bullcraft, la serie si imposta sulla Bullcraft. Tutti i macchinari che devi fare sono fatti utilizzando i chipset della Bullcraft e la Industrial Craft. Quindi ho fatto Bullcraft e Industrial Craft. È ovvio, se no non posso fare nessun altro macchinario. Da Bullcraft e Industrial Craft sono passato a Thermal. Da Thermal passerò ad altre mod, ad Enderio per esempio. Perché è così che deve essere fatta, così la serie si impone per forza. Che c'è il libro o no? Che è quello che dice il libro. Ok, quindi mi stai dicendo che io copio il libro. What? No, no, no. Non sto dicendo che copi il libro. Il libro è un consiglio che dà il player. Anche noi lo stiamo seguendo. Ti giuro che non ho letto il libro, perché non mi interessa che qualcuno mi dica ciò che devo fare in ordine, perché decido io l'ordine in cui devono essere fatte le cose. Se mi impone la forza di fare in quel modo all'inizio, ovviamente non posso far diversamente. Allora, non gli interessa se è solo o se è insieme. Non gli interessa il libro, e gli interessa poter essere il migliore, che dice lui, per lui. Vedete voi? Ulisse, perdonami, ma il poter essere il migliore per te stesso implica automaticamente che non puoi accettare le regole che ti si sono state imposte, come sono state imposte a me, di questa serie. Guarda, allora, se questo è il problema, vabbè ragazzi, cioè, dispiace se non mi va bene come penso e come ragiono io. No, io sto come mi dispiace, detto, cioè, si vede che non siamo positivo, compatibili, e vabbè, ne faccio la croce, ok, vabbè, non ne posso farci nient'altro, naturalmente. Dimmi. Ulisse, ma ti sei reso conto che stiamo giocando su due serie diverse? Cioè, la serie di Luke con i partecipanti e la serie di Ulisse a parte. Così è finita, eh. Quello che intendo. Bene, cioè, cercherò di migliorare, che ti devo dire, cioè, più che dirti metto tutto di impegno per poter risolvere questo problema che mi hai fatto notare, cosa ti posso dire? Cioè, attualmente non ti posso dimostrare nulla se non giochiamo, in realtà, quindi io vorrei sapere dove e a cosa vuoi arrivare, solo quello. A fare dei macchinari e far divertire coloro che vengono in live. Semplice, penso tutti non pensiamo a sta cosa. Di cosa è? Dimmi allora il soggetto, Ulisse, di questa frase. Tu giocheresti senza streamare, senza pubblicizzare questo live? No. Allora, hai visto? È la domanda che ho fatto io. Togliamo tutti i live e non facciamo più nulla di pubblico. Tutte le sere però continuiamo a giocare. Tu continui? Hai detto di sì, Uli, eh. Giocare tranquillo. Ma insisto, allora, io gioco a Minecraft anche senza andare in live, ok? Tranquillamente. Come mi piace Ulisse, Minecraft, è un bel gioco. Dimmi, allora, il problema è questo. Se non mi è stato detto nulla riguardante i live, implica questa cosa, significa che io posso farci un live. Quindi perché adesso devo essere limitato a non fare un live quando non era una delle regole? Tutti quanti, come la vecchia serie, nessuno fa streaming tranne Luke, che è l'ideatore, colui che ha voluto questa Marco, serie. In realtà doveva essere così. Poi io da stronzo ho detto, ok, se volete farli anche voi... Facciamo così, se ti va, Uli, nessuno fa streaming né live né nulla, e li fa soltanto Luke, che è l'ideatore di questa serie. A me non cambierebbe nulla, comunque preferirei che facessi anche dei live io, ovviamente, anche perché avevo promesso ai ragazzi della mia chat di fare dei live serali, e quindi avevo approfittato anche del fatto che nessuno mi aveva detto nulla riguardante questo problema di fare dei live in contemporanea, e quindi avevo fatto anche io dei live. Appunto, ai ragazzi della tua chat puoi dire che sei comunque live, non su quel canale ma su un altro. Molti dei ragazzi non vogliono guardare la tua visuale, non ci posso fare nulla in quel caso, poverini. Non ci posso fare nulla. Oppure si può fare l'hosting, se proprio vuoi mandare live, manda l'hosting. Prima ritorna comunque, molti dei ragazzi non vorrebbero vedere la visuale di Luke. Lu, tante e persone allora? Che conosco di vecchia conoscenza, nonostante io non ho un canale e non ho uno stream, vorrebbero vedere la mia visuale, ma non la vedono e vedono il live di Luke perché posso apparire in qualche momento e essere presente. Ok, ma c'è molti ragazzi del mio canale che non apprezzano la figura di Luke. Ok, ma insisto, c'è molta gente invece che non apprezza la figura di Luke nel mio canale, e quindi preferirebbe che fossi io a parlare con loro e a streamare la mia visuale invece di guardare la visuale di Luke. Sai quanta gente invece non sopporta la tua voce? Ieri ti ho tenuto comunque in live. E vabbè, che ci posso fare? In questo caso sta a te risolvere questo problema. Io che ci posso fare? Ma perché tu disse quando c'erano le vecchie serie streamava stando Luke ti andava bene nonostante ci fosse al tempo avevo una connessione minore e non avevo la possibilità di farlo, e quindi la domanda è diversa. A non streamare? Eh? Torneresti a non streamare? Se dovesse essere necessario sì, di quei 4 iscritti che si lamentano, se dovesse essere necessario sì, però non potrei comunque dimmi, vai. La maggior parte delle persone che ti guarda alla fine ti chiede anche del fatto se ritorni. Sono 3-4 gatti che ti chiedono: no, non andare da Luke, no. Ma questo lo dici tu, Francesca. Io sinceramente seguo la mia io leggo chat i commenti. e molti. Quali commenti? Non ci sono commenti nella chat, c'è una chat Ma, e basta. E lì, i sinceramente, sono video. Davvero pochi. Vedi, Quali video? E i video vedi, non c'entrano nulla con riguardo alla live. Vedi, pubblicizzi vedi, in live. Vedi, io Francesca. Sono tutto, vedi, è normale. Tutta la sua chat non vuole vedere la mia visuale. Ti spiego anche perché. Tutta? Ulisse, Xander, tutti coloro che se ne sono andati, la maggior parte dei fan che sono rimasti sono quelli che odiano me. Ma io Loro non hanno ci preso credo. tutti i miei haters. Ma io non ci credo io. E invece ti dico che la maggior parte è quella. Il problema è se io dovessi ragionare alla Ulisse, ieri dovevo A o chiudere il live, B o cacciare Ulisse dalla chiamata, perché la maggior parte era fai stare zitto con la voce. Ci sono Vabbè, anche si le vede. persone Allora, che si vede. parlano. Ok, allora, si C'era vede anche che. un'aggiornazione qui. Aspetta, la vado a Vabbè, recuperare. dai. Comunque, se c'è una donazione, se c'è questo problema, preferisco star muto a questo punto. Quindi, converrebbe più fare quella cosa che facevo già prima. Scusami. Vedi, non capisci un cazzo? Ho detto Se io, se pensassi, se tu seguo. pensassi allo stesso modo mio, ma questo non significa che il mio pensiero, il tuo pensiero siano sbagliati. La pensiamo semplicemente in due modi differenti. Ma ti è stata porsa porca una domanda. Preferirei fare dei live, perché come già detto ho promesso di fare dei Ok, live. preferiresti, ma se da stasera si mettesse la regola che nessuno va in live, Sì, cosa fai? Esci dalla ok. serie? Sì. Ok, perfetto. Abbiamo capito tutti quanti cosa volevi in questa serie, appunto. Mi intenzione non era fare iscritti, Uli, se è quello puoi che andare stai in live dicendo anche da adesso, solo a sto attualmente. punto. Ma io non No, fare capisco iscritti però questo problema, sinceramente. guadagnare. Va, ragazzi, sì. Cioè, insisto, se voi pensate che io sia qui soltanto perché devo grabbare iscritti Lo e. stai dicendo tu, Lo Ulisse, non stai. noi, Voi mi Ti ha state fatto una facendo domanda intuire e hai questa risposto cosa, sì. sinceramente, ragazzi. Uli, ti è stata Ti ha fatto fatta una una domanda domanda e hai molto risposto sì. semplice. Tu rinunceresti alle live No, pur perché di come ho giocare già questa detto, serie? Allora, però come ho sei già detto, perché dovrei incoerente. rinunciare a una live? Ma sei incoerente, a inizio di questa conversazione, tu hai detto mi fa piacere giocare con voi. Ora non ti fa più piacere giocare con voi, ti fa piacere andare nel tuo live, Allora, il quello. fare piacere. Allora, Mandare Chip, tante tu pubblicità rinunceresti e alla live? tante mandare pubblicità. Io sì. Ho fatto. E richiedere donazioni ogni 3 minuti. Dai, Ulisse, quello vuoi. Allora, partiamo dal presupposto che le pubblicità non le ho messe, anzi, ho messo le donazioni. Ho detto chi vuole donare lo può fare. Non obbligo nessuno a donare, come penso lo faccia anche tu tranquillamente. Ripetuto Non ogni tre obbligo minuti. nessuno. Comunque va bene, ma non mi Uli, sento in Ripeto calza ogni la 3 lingua live. minuti addirittura. Uli, Vabbè, mi spieghi ok, una dimmi. cosa? Perché Chip rinuncerebbe alla streaming e tu no? Boh, sue decisioni, io ho le mie decisioni, lui le sue decisioni, i suoi pensieri. Ragazzi, ma devo ancora continuare a parlare quando sta dicendo chiaramente che è qua solamente per un obiettivo, punto. Ma si è capito. Uli, Allora, facciamola non così funziona molto così. chiaramente. Luke, io non voglio i tuoi iscritti, ok? Partiamo da questo presupposto. Non voglio le tue visite e non voglio nient'altro di questo. Perché se fossi intelligente, e credo di esserlo, poi magari sono stupido e vabbè, capita, andrei da una persona che magari fa molti più iscritti e molte più viste di te. Sarei Che non ti caga, stupido. però. E va bene, ok, quindi tu mi stai dicendo No, che mi caghi. diciamolo! Che No, diciamolo! senso ha? Dai, Scusami. vai a chiedere a Marco Tu mi Antonio stai cosa facendo dico con sta lui, dai! cosa? Tu mi stai No, chiedendo ma è la questa cosa? verità! Tu me lo stai Io. punendo su Ma questa sono io lo base, stronzo che ti ho messo nella serie! Vai a chiedere a Marcus Conley di farti eh? Ma entrare, più che altro dai! il fatto è questo, Ulisse. Tu sei entrato in questa serie. Se all'inizio Luke diceva a tutti quanti non si fa il live, tu l'avresti In quel continuato la caso sì, ma serie? se abbiamo deciso che si poteva fare il live, perché adesso non potrei più farlo? Perché adesso abbiamo avuto questa discussione, quindi io devo rinunciare al mio live per questa discussione. Non ha Ma la senso. discussione è Perché nata da semplicemente te. per così capita, gravano a potevo capo rinunciare. tante cose. Sì, che Dai, Francesca, così tanto Ulisse, abbiamo rinunciare. fatto una domanda ben precisa al quale tu hai Perché spendo risposto. del Tu mio hai risposto tempo in sbagliato. live e non vorrei spenderlo inutilmente. Funziona così, Ma Francesca. infatti, allora, se quell'inutilmente è passare del tempo No, con dei. inutilmente significa sprecare un live senza poter parlare nemmeno con la mia chat, dovendo parlare solamente con voi, dicendovi delle cose molto piccole, insomma, perché non posso chiacchierare per 2 ore solamente io, perché Ma ovviamente esiste siamo il in 20, botting, tu ti siamo. metti la dashboard, ti guardi Stai la giocando chat, con dimmi, delle anche persone. se fai vedere la Stai vita giocando con di delle persone, Ulisse. La domanda è stata che all'inizio è stata: ti fa piacere giocare con noi? Arrivo Hai detto subito. sì. Ma certo mi fa piacere giocare con voi. Questo però non Allora, implica e il basta, fatto che non Ulisse, non voglia ti anche che spesti per possa seguire te. la chat. Perché devo rinunciare a una cosa delle due? Che non dovresti. Esatto, voi mi state dicendo o una o due. Mi state facendo rinunciare per forza a una cosa, per forza. Mi state mettendo su un Prova, out-out. per mettiti alla prova, perché non dovresti rinunciare a qualcosa? Perché dovrei? E qual è il punto, Francesca? Perché dovrei? Chi mi obbliga a fare una cosa del genere? Sei qui per giocare. Scusatemi, cioè io vorrei giocare a Minecraft e dovrei essere obbligato a dover rinunciare a una delle due cose. Perché? Tu ti sei dato questo impegno. Certo, mi sono dato questo impegno. Questo non significa che non posso seguire entrambe le cose. Magari sto seguendo di più adesso la chat. Ho detto va bene, posso fare tranquillamente il contrario. Posso fare il 70 e il 30 o l'80 e il 20. Leggi cosa ha scritto Max Segots. Perché se seguendo la tua chat togli dialogo alle persone con cui stai giocando, forse, Uli? Perfetto, ma ho già detto... Già, allora, abbiamo visto questo punto ieri, mi sembra chiaro, e questo è il punto della discussione. Ho detto, mi impegno a fare del mio meglio e migliorare da quel punto di vista. Ora, però, è stato detto, no, non devi più migliorare da quel punto di vista, devi forza levare completamente le tue chat. Uli, sono domande fatte apposta per capire se hai veramente intenzione di giocare. Perfetto, e allora, visto che abbiamo chiarito questa cosa, perché c'è ancora questa cosa? Per un live, Ulisse, solo. Per un ti live, voglio Ulisse. Semplicemente ricordare una cosa. In questa serie, non è come le serie vecchie, non c'è gente di 12 anni qua dentro. E ora che c'entra sta cosa? Sono tornato. Entra come? Ti sono state fatte le domande schiette, dirette e importanti. E io ti ho risposto in modo schietto e diretto, posto. E no, non voglio rinunciare alla mia live. Grazie alle tue risposte abbiamo capito tutto. Va bene, Ulisse, se tu dici così, ok, dimmi. Ti rifaccio due domande che ti sono già state fatte. Ok. Insieme però. Allora, facciamo così, Luke. Vabbè. Insieme. Allora, no, aspetta. Perché posso giochi questa serie? Perché voglio divertirmi e giocare a Minecraft, come faccio di solito. Ok. Saresti disposto a non streamare? No. A meno per un live? No, allora nemmeno. Non giochi per divertirti. Anzi, facciamo così. Allora, visto che voi ponete delle condizioni, le pongo anch'io. Ma chi sei okay. per porle? Allora chi sei tu per porle a me? Quello è il punto. È mia la serie, ma che cazzo non vuoi? Ha senso a questo punto. No, ma non ha senso. Scusami. Allora, visto che non ha senso quello che dico, puoi tranquillamente andare in live stasera, ma in single player. Siete voi che state facendo sta cosa, mi state ponendo delle condizioni. Quello è il punto, ragazzi. Cioè, non avete capito sta cosa? Voi potete grande, porre delle condizioni su di me, ma io non posso dire niente di queste condizioni. Le mie condizioni è che Luke mi chieda scusa per quello che ha detto ieri in live, durante la mia persona e il mio modo di vivere. Cosa che ha fatto mai, per la sua... Non lo farò perfetto, mai. E allora io non leverò mai i live dal mio canale, aspetta, mi dispiace. Uli, scusa, cos'è che avrebbe detto Luke? E se vuoi te lo ripeto anche adesso. Perfetto, me lo ripeti anche adesso. Parole, e mi dà fastidio questa cosa, è la seconda volta e te lo ripeto. Per favore, questo. Non giudicare la vita di nessuno perché la tua non è migliore né peggiore dell'altra. È per questo che ce l'hai con Luke. Questa cosa sì, ieri mi ha dato davvero molto fastidio, quindi te lo dico solo molto chiaramente. No, comportamento, questa è la vita che tu ce l'hai con gli uomini. Allora perché in live hai fatto la bella faccia? Perché in live ho già detto faccia di merda. No, perché semplicemente questa cosa bisognava risolvere adesso qui. Devi chiedere tu scusa, non devi chiederlo in live. Perché non l'hai risolta 45 minuti fa, non un quarto d'ora in ritardo dalla live? Perché adesso stiamo discutendo di questa cosa, visto che mi avete posto delle condizioni, le pongo anch'io. Pensavo potessimo risolvere questa cosa tranquillamente, potessi dimenticare di questo affronto, perché in realtà è un affronto e mi dà fastidio un sacco. Sei tu che hai detto che vuoi essere migliore di noi, ma ce la fai, Ulisse? E quindi tu puoi insultarmi dopo sta cosa? What? Che senso ha? Scusami, come Ulisse, unisci le Luke due mi cose? Mi insulta stasera in live. Io gli dico, Luke, ma che cazzo stai facendo? Riprenditi e vedi di non insultare. Sono arrivato dopo gli insulti, ok? E non ho voluto creare nessuna polemica. Come perché volevo risolvere questa cosa non in live? Perché non riguarda la chat, non riguarda quella parte di cosa, riguarda due persone. E riguarda il fatto che una persona giudichi un'altra portandosi del potere a sé che non ha. Perché tu non puoi giudicare me perché pensi di essere migliore di me. Perché se tu giudichi una persona intendi che sono. Te stesso come lo sei davvero mi lo stai sono. Dicendo questa cosa. Beh, provocatore, lo sono. Va bene. Sarò sempre migliore di te. Ah va bene, allora non possiamo proprio chiarire questa questione. Perfetto. Non lo faremo mai. Allora va bene. Vabbè. E allora io non rinuncio. Ma lei ma devo ancora stare a perdere tempo con un ragazzino dopo le cose che stai dicendo. Ma la verità dicendo, è che Alice ce l'ha con te, ecco. Non ce l'ho con lui. No, Lady, ma lui come tutti gli altri sono usciti dai Game Grabbers uguali, hanno acchiappato, non hanno mai ringraziato e vogliono addirittura le scuse. Certo, voglio le scuse per qualcuno se mi giudica senza poterlo fare. Va bene, hai ragione. Ok. Ulisse, lo sai che anche a me Luke mi ha chiamato donna di merda, ma non è che io vado là e ce l'ho con Luke, eh? Abbiamo chiarito. Ma infatti io vorrei chiarire, però come chiarire? Mi devi chiedere scusa perché questa cosa non può farla. Non ha nessun diritto. Sai quante scuse? Non mi interessa, Francesca, tu sei una persona. Io non ha diritto di fare una cosa del genere. Mi dovreste tu, Alexander, Ulisse. Perché ti dovrei chiedere scusa? Non ti ho mai insultato, non ho mai insultato la tua persona e la tua famiglia, mai. Se ti dicessi quello che mi ha detto Kieran, guarda, altro. Ti chiamo Kieran, ti faccio smerdare in questo Va bene, chiamami Roberto. Scusa allora. Un attimo, scusa un attimo. Chiamo io stesso Roberto se vuoi. Ce l'ho anch'io il numero di Roberto, vai, dimmi. Uli, scusa, una domanda certo. Semplicissima. Quando sei uscito dai Gigi, tu hai ringraziato Luke per caso? Sì. Ho registrazioni che possono dimostrarlo. Quando? Io non ho sentito il negativo. Ho registrazioni che possono dimostrarlo. Vai, dimostra allora. Allora, aspetta. Devo trovare la registrazione. Comunque sì, c'ho la registrazione di io che dico grazie Luke per tutto quello che hai fatto. Si vede che non eravamo compatibili, ci vediamo presto, ciao. È così che ho chiuso la discussione. Non ti accavare, grazie mentre te ne stai andando. No, io sto dicendo dopo, prima. Sempre Luisa, fatto favore, stai facendo adesso dei problemi, sinceramente. Poi ricordo una frase molto semplice che tu ripeti sempre in live e che poi in realtà si vede che l'incoerente magari non sono io, sei tu. La frase è: io non chiedo mai ringraziamenti. E poi adesso me lo stai chiedendo. Non ha senso questa cosa. Incoerenza completa. Ascolta bene le mie frasi. Io ho detto, lo dico sempre, io non chiedo ringraziamenti, ma nel momento in cui si fa il mio nome, prima mi ringrazi e poi mi insulti. Perfetto, io ti ho ringraziato tranquillamente. Mai ringraziato, solo parlato. Questo lo dici tu, io ho registrazioni che dico il contrario, però dici tu. Del boost su YouTube e poi fai tutto il resto. Lo faccio adesso, grazie Luke per avermi boostato su YouTube. Fatto un cazzo, e allora vedi che allora ti stai lamentando adesso, ma che problemi hai? Cioè, mi chiedi una cosa e poi ti lamenti. Ma non lo devi fare qua. Che cosa devo fare? Vado su YouTube, faccio un video con scritto grazie Luke. Così sei doppiamente stronzo, scusa. Scusami, mi sta punendo tuo marito a questo punto, scusami. Cioè, che ti devo dire? Sinceramente io non ho mai giudicato la persona di Luke e mi dà fastidio, cioè mi dà categoricamente fastidio il fatto che una persona giudichi la mia vita e il mio modo di essere. Mi dà fastidio. Perché no, perché si sta ceppa di minchia, non me ne frega la niente. Ceppa di minchia, sei un ragazzino, non dire queste volgarità. E quindi tu credi perché hai 30 anni, credi di potermi giudicare? Che senso ha? Avete sfottuto voi da quando eravate qua dentro, le palle tutto il tempo, Ulisse. Avete sempre iniziato sempre voi. Luke parla, vi lamentate? Avete rotto i coglioni da quando siete entrati. E sono sempre stato zitto. Io non ho mai parlato di Luke come persona, mai e poi mai. Dimostramelo. Avete parlato sempre dei Gigi. Ridevo dietro. Sinceramente, se nessuno può dirmi, dimostratemi il contrario. Io posso dimostrare. Vai, dimmi. Preso per il culo fino al giorno in cui sei entrato nella serie, su quel gruppo di merda di tutto. L'ho mai fatto in pubblico? No. Non me ne fotte. Quindi ma l'hai fatto, Ulisse? Non l'ho fatto. Sei un bambino di merda, sei. Va bene, lo dite voi. Lo sei, non lo dico. Lo dici tu, va bene. E quindi, allora, facciamo così. Risolviamo in questa maniera, ragazzi miei. Facciamo in questo modo molto semplice. E infatti, non c'è per niente da risolvere. Facciamo così, io mi taglierò i miei baffi, però tu fatti ricrescere i denti, perché è qualche problema. Ciao. Ah, e che palle sto ritardato di merda.